English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Questa sera ospitiamo un personaggio famosissimo, è una cantante, una cantautrice, una poetessa, insomma un personaggio importantissimo nella storia del Novecento nella musica popolare americana. Si chiama Patti Smith, insomma il nome già dice tutto. Abbiamo detto della musica del Novecento ma anche di oggi, perché Patti Smith continua a lavorare, è stata recentemente a Milano dove ha presentato un DVD che parla di lei. Noi l'abbiamo incontrata, anzi l'ha incontrata per noi Adriana Fracchia, ecco cosa le ha raccontato in particolare riguardo alle nuove generazioni. Qual è il suo rapporto con le nuove generazioni? I think each generation translates for itself. They have to process history, the present world, new technology, and I think that our new generation is going to find ways to make positive change through the complex technology that we have. New generations seem a lot more aware of the environment and the importance to take care of the environment and to clean up our world. And perhaps if we have economic crisis, people will become less materialistic and be more concerned about their inner self. I have faith in new generation. I think that they are, as I said, processing how to use our technology and how to make change. Io le ridevo prima di cominciare la puntata con Giulia. Ho l'impressione che lei sia ancora una straordinaria hippie trasportata nei tempi moderni, sì, perché insomma i suoi riferimenti sono ancora questi. Lei vive nel suo mondo dei puffi e dei fiori e pensa sempre positivo, tant'è che dice che poi ha questo entusiasmo per le nuove generazioni, no? Al contrario di tanti anziani che in generale tra virgolette odiano i giovani o comunque non li capiscono. E lei dice each generation translates for itself, quindi è un'espressione che si è un po' inventata, comunque la capiamo, cioè traduce per se stessa, quindi ogni generazione trova il suo modo di comprendere il mondo. Lei è una poetessa, quindi insomma usa le parole appunto come fanno i poeti. Cosa deve fare ogni generazione? Con cosa è alle prese ogni diversa generazione? Ecco, qui c'è un false friend che poi in realtà conosciamo, perché lei dice they have to process history. To process naturalmente non vuol dire processo, che invece si dice trial, ma vuol dire processare, ma appunto non nel senso di fare un processo, ma nel senso di elaborare. E quello che va elaborato è la storia, quindi to process history and the present world, il mondo attuale. Quindi bisogna trovare, naturalmente elaborare, come fa un microprocessore per l'appunto, un microprocessor, e capire, trovare, going to find ways, quindi trovare la propria strada. Lei, l'abbiamo detto, ottimista, positiva. Sì, perché poi naturalmente c'è l'ambiente e quindi dice che new generation seem a lot more aware of the environment. To be aware vuol dire essere attenti, essere accorti in questo caso, quindi lei lo dice anche to take care of the environment, quindi sapere che l'ambiente è una cosa importante e che bisogna curarlo, bisogna curarsene, to take care of. Tra l'altro lei dice che il mondo bisogna clean up. Sì, to clean up naturalmente avrebbe potuto dire to clean our world, ma to clean up è un phrasal verb che è molto rafforzativo, in questo caso è un po' come stand up, quindi alzati, anche se anche stand sarebbe alzati, quindi pulirlo per bene, pulire per bene il nostro sporco mondo. Mi piace molto questo ottimismo di Patti Smith, anche perché vede del bello anche nei momenti difficili che stiamo vivendo oggi. Naturalmente, la economic crisis, lei spera che people will become less materialistic, appunto l'abbiamo detto, figlia dei fiori, un po' puffetta, e quindi lei spera ancora che, pur essendo americana, quindi il paese che un po' diciamo ha inventato il consumismo, ma noi lo abbiamo copiato molto volentieri, ebbene lì si diventi meno materialisti. I have faith. Lei non ha dubbi. I have faith. Patti Smith a un certo punto durante questo incontro milanese ha declamato una poesia che in realtà non è precisamente una poesia, o meglio non è solo una poesia, è il testo di una sua canzone famosissima, People Have the Power. Ascoltiamo come lei ha recitato, declamato il testo di questa canzone famosissima che abbiamo sentito in mille versioni, ma questa è proprio la sua versione poetica. I was dreaming, in my dreaming, of an aspect bright and fair, and my sleeping it was broken, but my dream it lingered near in the form of shining valleys where the pure air recognized, and my senses newly opened because I awakened to the cry that the people have the power to redeem the work of fools. Upon the meek the graces shower. It's decreed, the people rule. Beh, a me veniva voglia di canticchiarla mentre lei declamava il testo. Questa canzone è effettivamente famosissima, ma finalmente, grazie al fatto che ce l'ha declamata, possiamo analizzare il testo. The people have the power. Sì, che è un po' una poesia in musica, naturalmente, quindi molto onirica, perciò lei lo ammette, tutto questo non è la realtà, ma I was dreaming in my dreaming, quindi stava sognando nel suo sogno. Cosa c'era in questo sogno? Era un sogno bellissimo, naturalmente. C'era un aspect bright and fair. Aspect, naturalmente, aspetto, ma in questo caso poeticamente un po' atmosfera, quindi un'atmosfera luminosa e fair, cioè giusta, quindi c'era, si viveva con la sensazione non soltanto fisica di essere in un posto luminoso, ma anche in un posto dove vigeva l'onestà e la giustezza. Beh, fantastico questo sogno, mi piace, lei continua a descriverlo. Sì, poi però insomma, sleeping it was broken, poi magari c'è stata una piccola interruzione, il sogno si è spezzato, cioè non è stato più un sogno, però allo stesso tempo it lingered near, cioè questo sogno comunque si chiariva nello stesso tempo, forse possiamo provare a interpretare, è la speranza che non fosse soltanto un sogno di una persona addormentata, ma che si svegliava e in realtà il sogno si era anche avverato. Questo sogno che aspetto aveva questa chiarezza che lei ha acquistato. Abbiamo visto grande luce, quindi c'erano queste shining valleys, queste valli piene di luce, addirittura splendenti, e questo ambiente così luminoso risvegliava i sensi, quindi the senses newly open, quindi si riaprivano, si risvegliavano tutti i sensi, e così dice che riuscì a svegliarsi, siamo sempre tra la veglia e il sonno, quindi I wakened to the cry, to waken sta anche per wake up, qui naturalmente è un po' più poetico, e il cry, che in questo caso non è l'urlo ma il grido, non è il pianto ma l'urlo, il grido, è people had the power, la gente aveva il potere. E quale potere, ecco? E questa è la cosa naturalmente bella, perché poi chi è ottimista spera sempre che chi ha sbagliato possa redimersi, e quindi the people had the power to do what? To redeem the work of fools, quindi redimere, perciò aggiustare, ma fare in modo che si annullasse ciò che gli stupidi, gli sciocchi avevano fatto, il work of fools. Ma andiamo avanti con il testo di questa canzone, che poi è diventata appunto, nel modo in cui l'ha recitata Patti Smith, una poesia. And vengeful aspects became suspect, and bending low as if to hear, and the armies ceased advancing, because the people had their ear. And the shepherds and the soldiers lay beneath the stars, exchanging visions, lay in arms, to waste in the dust, because the people had the power. And where there were deserts, I saw fountains, and like cream the waters rise, and we strolled there together, with none to laugh nor criticize, and the leopard and the lamb lay together, truly bound. I was hoping, in my hoping, to recall what I had found. I was dreaming, in my dreaming, God knows a pure view. As I surrender into my sleeping, I commit my dream to you. Ecco, eravamo rimasti al punto in cui diciamo che la gente ha il potere di redimere tutte le cose che non vanno. Insomma, lei adesso spiega un po' cosa possono fare le persone. Sì, addirittura, insomma, siccome lei immagina un mondo giusto, quindi bright and fair, come ha detto prima, allora cosa succede? Che tutti quei vengeful aspects, quindi tutti quegli atteggiamenti vendicativi, revenge e vendetta, vengeful vuol dire pieno di vendetta, quindi tutto ciò che era vendicativo became suspect, cioè chi appariva così diventava sospetto, mentre magari a volte si guarda storto chi sembra troppo buono, perché ci si chiede se sta tramando qualcosa. Qui, in questo sogno, è il contrario. And bending low as if to hear, quindi le persone, possiamo immaginare letteralmente, no, si abbassavano per ascoltare, quindi è probabilmente, almeno vedo io questa immagine, di una persona che si avvicina anche a chi è più basso, chi è sotto, per ascoltare la sua voce. Tra l'altro una visione ovviamente molto pacifista. Naturalmente l'altro grande tema di Patti Smith di tutti gli anni 60 e 70, ma se vogliamo anche di oggi, è quello della guerra, quindi the armies ceased advancing. Quindi questo può essere nella realtà, cioè gli eserciti cessarono di avanzare, e possiamo vedere naturalmente l'esercito come una presenza fisica o anche magari metaforica del male in generale. Anche perché proprio ha una visione di quello che succede ai soldati, ai pastori, ecco, ha proprio una visione di un bellissimo ambiente. Si dice the shepherds, quindi i pastori, i custodi, and the soldiers, e i soldati, lay beneath the stars, quindi to lay, essere sdraiati, beneath, sotto, quindi essere sdraiati sotto le stelle, magari a contemplarle, magari a uno vicino all'altro, magari ex nemici che invece exchanging visions, che si scambiano opinioni, più che opinioni addirittura visioni. Tra l'altro comincia proprio come in un sogno, in una visione, a popolarsi questo paesaggio di un sacco di figure. Ah sì, where there were deserts, dove c'erano deserti, I saw fountains, lei nel suo sogno vede delle fontane. E addirittura like cream the waters rise, le sgorgano come se fossero creme. We strolled there together. Stroll, to stroll. È un verbo bellissimo, lo si può usare sia quando si passeggia o si usa il passeggino, quindi appunto lo stroller, poi il passeggino, però to stroll, se uno fa una camminata molto così, molto, molto easy, molto spensierata, quindi tutti insieme camminando spensieratamente. Tra l'altro in ovviamente armonia perfetta con tutti. None to laugh nor criticize, cioè non c'era nessuno che poteva, c'erano ragioni per prenderlo in giro né per criticarlo, nor criticize. I was hoping in my hoping, avevamo trovato all'inizio proprio I was dreaming in my dreaming, stavo sognando nel mio sogno, nel mio sognare, adesso sta sperando nella sua speranza, quindi e subito dopo ripete, quindi I was hoping in my hoping to recall what I had found, quindi di ricordare tutto quello che ho trovato, and I was dreaming in my dreaming, la speranza è di aprire gli occhi e ritrovare nella realtà quello che ha sognato, e poi forse non è così. Arriva Dio, God knows a purer view, quindi Dio sa, God knows, che quella che io ho visto era una visione più pura di quella che purtroppo abbiamo poi davanti agli occhi, e quindi as I surrender to my sleeping, quindi quando poi mi arrendo veramente e so che in realtà era un sogno, quindi mi arrendo al sonno, I commit my dream to you. To commit vuol dire affidare, consegnare proprio con speranza il suo sogno alle nuove generazioni. Per quanto riguarda invece l'intervista che abbiamo sentito all'inizio, di cui abbiamo sentito un estratto all'inizio, l'intervista di Adriana Fracchia, la troveremo anche sul numero di English 24 in edicola, proprio nella pagina dedicata al nostro appuntamento radiofonico, perché il nostro tempo anche per questo sabato si conclude qua. Quindi io ringrazio anche Fabio Cantadori in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.